panorama che ho qui davanti a me ha una copertina esclusiva che titola così: le relazioni pericolose del presidente e sono le relazioni di Rosario Crocetta e la mafia. Lei crede a questa immagine che potrebbe incrinare l'idea del Crocetta antimafioso, oppure come la definirebbe? Possibile fango? Guardi, io credo che avendo fatto opposizione molto forte a Crocetta e avendo detto con molta chiarezza che la coalizione che lo sosteneva, la continuità rispetto al sistema di potere, mi voglio astenere da ogni valutazione su questo aspetto. Insisto, considero la elezione di Crocetta, la sua coalizione, la continuità rispetto al vecchio sistema di potere. Poi gli altri aspetti li vorrei esaminare con più precisione. Ma lei metterebbe almeno la mano sul fuoco su Crocetta? Cioè, voglio dire, è un uomo che ha fatto della lotta alla mafia, un uomo scortato, un uomo... Cioè, lei è un uomo che ha fatto la lotta alla mafia, il suo impegno politico, mi auguro che questo sia esattamente quello che tutti dicono. Ma il tema non è il suo impegno di lotta alla mafia, il tema è che lui si è prestato ad essere espressione di una coalizione che la continuità rispetto alla peggiore politica siciliana degli ultimi 10 anni e si sia pensato a questo. Si riuscirà a liberarsi? Sarà un uomo di rottura rispetto al mondo che l'ha espresso o sarà in continuità? Beh, questo lo vedremo nelle prossime